Disco Della Settimana. Sovrappensiero si è messa le cuffie, ha cominciato a camminare. Sovrappensiero si è messa le cuffie, ha cominciato a camminare. Sovrappensiero si è messa le cuffie, ha cominciato a camminare. Verso il giorno che muore, verso il sole che cade. Sovrappensiero si è messa le cuffie, ha cominciato a camminare. Verso il giorno che muore, verso il sole che cade. C'era un tempo in cui ogni cosa aveva un po' più tempo, in cui facevo merenda dopo catechismo. C'era un tempo in cui ridevo a messa con gli amici, tornavo a casa, mangiavo e poi andavo in bici. Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Sovrappensiero si è tolta le scarpe, è imparato ad assaggiare con i piedi la terra, con i piedi l'erba. Sovrappensiero si è tolta le scarpe, è imparato a volare con la testa per aria alla festa di Agraria. C'era un tempo in cui ogni cosa aveva un po' più tempo, in cui facevo merenda dopo catechismo. C'era un tempo in cui ridevo a messa con gli amici, tornavo a casa, mangiavo e poi andavo in bici. Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Oh, quante canzoni ci vogliono, quante canzoni ci vogliono, oh. Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Oh, quante canzoni ci vogliono, quante canzoni ci vogliono, quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Ci vogliono per tornare a casa da qua? Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Quante canzoni ci vogliono per tornare a casa? Secondo te, Enrico, quante canzoni ci vogliono per tornare a casa da qua? Dipende, cioè qual è il concetto di casa? Dipende anche dove siamo, perché per andare dove dobbiamo andare? Mm. Dove dobbiamo andare? Giustissimo, quindi sono un sacco di variabili che dobbiamo prendere in considerazione nella risposta a questa domanda. E secondo me possiamo trovarle un po' facendo la stessa cosa che fa la band che presentiamo oggi. Che cioè scrive cose piuttosto casuali, nonsense. E anche nelle poche interviste che abbiamo trovato non è che si capisca granché di quello che fanno. Però ecco, la canzone che avete appena ascoltato si chiamava Sovrappensiero, come dice più volte il testo. Se non l'aveste capito, insomma, Sovrappensiero. Ed è uno dei tre singoli che ha anticipato l'uscita del debut album di questa band toscana strana, la definiamo strana, Sì, ma secondo me loro sono strani volendo esserlo. Ecco, sono stati definiti, tra l'altro, un po' simili a i Fast Animals, Slow Kids e i Gazebo Penguins delle origini. Ecco, secondo me io non li vedo così simili a loro, perché mi sembra che proprio loro giochino o comunque ragionino sul nonsense. Tanto che si definiscono una band tributo a un progetto post musicale che si chiama Zaino, che altro non è che la pagina Facebook di uno dei quattro componenti del gruppo, in cui scrive cose abbastanza nonsense che poi rilancia sulla pagina Facebook dei Tonno, che se volete trovare su Facebook dovete scrivere ragazza bonsai. Ecco, quindi abbiamo capito che stiamo parlando un po' di un, entrerebbero nel novero delle band demenziali, possiamo metterlo anche un po' così. Potrebbe essere, però non so se loro vogliono fare questa cosa, perché in realtà quello che poi si scopre è che sono un gruppo di 4 ragazzi, intanto hanno delle facce, le abbiamo viste, e nonostante in un video si coprano con dei fogli, quindi c'è anche questo richiamo volendo ai primi cani con i sacchetti di carta in testa, chissà, si coprono le facce, però in realtà sono 4 ragazzi che non hanno voglia di prendersi troppo sul serio, però gli piace fare musica e loro la definiscono musica normale. Musica normale, hanno fatto un EP normale nel 2018, ascoltano musica normale, fanno musica normale, sono una band normale. Ed è arrivato il loro album normale. L'album normale si intitola Quando ero satanista ed è il primo album dei Tonno, uscito il 28 agosto 2020. E a questo punto io vi farei ascoltare anche la title track, insomma la canzone Quando ero satanista, che è molto molto carina, e poi torniamo qua a raccontarvi quello che siamo riusciti a scoprire sui Tonno. Quando ero satanista cantavo una canzone nel parcheggio della Decathlon dietro alla stazione, l'estate era arancione, più arancione di te. Quando ero satanista dormivo sopra il prato, svegliavo sulle scale di uno stadio abbandonato. La mia estate più bella, pomodoro e mozzarella. E il peso della vita dov'è? E il peso della vita. sempre così. Oggi il mio cuore. Non so se voi all'ascolto siete mai stati satanisti, ma un po' tutti ci abbiamo dentro il satanista. Comunque lasciamo stare. Beh, cioè, sei satanista secondo me quando c'hai lo scazzo peso da post-adolescente, che secondo me un po' si rispecchia in questa tendenza, potremmo definirla emo, post-emo, non so se può essere un'etichetta. Post-emo. Che post-emo la creiamo adesso, è un'etichetta nuova che secondo me un pochino si attacca proprio bene, aderisce bene ai tonno, io li vedrei un pochino così. Tra l'altro ho trovato questa frase in una loro pseudo recensione biografia, una cosa che non dice quasi nulla di loro, ma spiega un sacco di cose. La dicotomia amore-morte ha fatto il suo tempo e ha pure fracassato il cazzo. Lo scontro frontale oggi è tra amore e scazzo. Richiedere fiducia per venerare Satana in compagnia, per stare bene insieme e via. E via, ma solo un po', dicono comunque. Però in realtà qualcosa di questa band la possiamo dire. Possiamo dire che intanto questi ragazzi sono toscani, il che forse spiega anche un tipo di umorismo toscano che io difficilmente riesco a capire. Beh, però... i toscani hanno rovinato questo paese, Stanislaw Rochelle, lo dicevo, Un grande intellettuale. Comunque questi quattro ragazzi si chiamano Alessio, Fabio, Nicolò e Federico, e Alessio è alla voce e il basso, Fabio suona la chitarra, Nicolò la tastiera, la chitarra, tutte e due dipende, e Federico suona la batteria. E si sono incontrati, a un certo punto definiscono diciamo la formazione della loro band come una cosa di cui non erano molto coscienti mentre la stavano facendo, quindi... Ed è successo tutto durante una festa di laurea di un amico. Cioè di solito durante le feste di laurea in effetti succedono delle cose. Feste di laurea, non di laura. Durante le feste di laurea di Laura magari succedono delle cose che non sono molto normali. Come ecco, ad esempio i tonno. Esatto, dopo questa festa di laurea i quattro ragazzi, su iniziativa di Fabio dicono, hanno deciso di prenotare una sala prove, così all'improvviso. E si sono prenotati in questa sala prove dicendo vogliamo una sala a nome Tonno, e poi hanno deciso di chiamarsi così. Una roba estemporanea e probabilmente dovuta anche ai fumi dell'alcol, ma questo non lo sapremo mai, magari sono degli straight edge. E quindi niente, in sostanza loro dicono che poi hanno iniziato a creare le prime canzoni e a giocare un po' con le parole, no? A fare un po' dei giochi di parole che poi ascolti, all'inizio ti fanno ridere, dopo un po' ti rendi conto che in effetti c'è questo connubio tra mi sto divertendo perché è molto divertente questo ritornello e ma insomma sono un po' preso male perché i tonno sono riusciti a farmi prendere. Beh, insomma, c'hanno un modo tutto loro di prendersi bene, prendersi male. È un postemo demenziale, che è una roba tutta nuova. Vedi che postemo andava bene allora? Postemo demenziale, direi che potrebbe essere interessante come concetto. A questo punto io farei ascoltare un altro pezzo, così proseguiamo con la presentazione di Quando ero satanista, album debutto dei Tonno, uscito ad agosto 2020, e continuiamo con Kame, con la K, che è un altro dei singoli che ha anticipato questo album. Vieni con me nella stanza dello spirito e del tempo. Lascia che fuori trascorra un minuto soltanto. Credevo di essere triste, ma c'avevo fame. Credevo di stare un po' meglio, ma c'era l'estate. Rombattito di ciglia e le tue dita, rombattito di cuore e la mia vita. La foglia che cade, non dormirà più sopra il tuo marciapiede. La foglia che cade, stanotte dovrebbe imparare a volare. Vieni con me nella stanza dello spirito e del tempo. sa che fuori trascorra un minuto soltanto. Credevo di essere stanco, ma c'avevo freddo. Credevo di stare un po' meglio, ma c'era l'inverno. Fra un battito di ciglia e le tue dita, fra un battito di cuore e la mia vita. La foglia che cade, la foglia che cade, non dormirà più sopra il tuo marciapiede. La foglia che cade, stanotte dovrebbe imparare a volare. Cosa ne pensi allora di questi tonno? Come ti stanno sembrando, Mauro? A me piacciono, anche perché io sono un amante fin dall'adolescenza un po' di questo punk rock demenziale. Non era post-emo prima? Sì, beh, c'è un po' di tutto, dai, insomma, come musicalità si avvicinano al punk, no? Accordi semplici, in quattro quarti, tanto casino, batteria spapapapam, che non è una tecnica di suonare la batteria, ma è comprensibile, insomma. Assolutamente, lo basso, bababam, chitarra, tatatadam. Perfetto, penso che i nostri ascoltatori abbiano compreso a pieno quello che tu intendevi dire, ma andando oltre questo piccolo impasse, direi momento di impasse, possiamo anche dire che il progetto musicale, che è nato appunto pochi anni fa, in realtà è anche stato accompagnato da una sorta di filosofia di basso profilo sui social. Infatti questi ragazzi hanno poco più di 25 anni, hanno iniziato effettivamente a prendere forma come band dopo l'uscita del primo EP, che si chiamava appunto Tonno. Nel 2018 è uscito Tonno, che è l'album omonimo, e poi dopo questa pubblicazione, che conteneva solamente 5 canzoni, hanno iniziato a fare alcuni live in giro per la Toscana. E non solo, perché pensa che nel 2019 sono stati anche al Miami Festival a Milano, al Reset Festival a Torino e sul palco del Largo Venue di Roma, aprendo il concerto dei Popper o Popix. O Pop 10, perché mi hanno anche detto che gli hanno chiesto se possono chiamarlo Pop 10, lui ha detto non escludo niente. Bene, perché il dubbio fa sempre bene nella discografia. Ma è anche bello lasciare libera interpretazione a chi ascolta. Ma a parte quello, ecco, intanto che loro hanno iniziato a suonare live sui social, che in realtà sono normalmente gli strumenti più utilizzati dai musicisti anche per farsi conoscere, per avere seguito, ecco, loro hanno mantenuto questo profilo bassissimo, dove non parlavano della loro identità, si erano creati dei disegni che in realtà sono poi stati realizzati dal cantante del gruppo, da Alessio, e allo stesso tempo però, nonostante questo basso profilo, è arrivata la Woodworm e ha detto mi piacciono e li prendo io sotto la mia ala, quindi hanno pubblicato questo album che stiamo scoprendo oggi, appunto, con un'etichetta che è molto importante nel panorama italiano. Sì, una delle etichette indipendenti forse di maggior qualità insieme alla Tempesta e ad altre, comunque molto importante. Tra l'altro c'era una spiegazione dei disegnini che fa Alessio, che dice: io su Photoshop, come era, prendo il pennello, smarmello le cose, quello che viene fuori, senza filtri, senza ritagli, senza colori. Esatto, tra l'altro non diceva solo prendo il pennello, ma prendo i pennelli brutti, cioè quelli proprio peggiori. Il peggio di Photoshop, ecco, io li farei con Paint, lui almeno è a livello successivo. Sai cosa, a me iniziano a piacere tanto, e quindi a questo punto ascolterei una traccia che voglio proprio dedicare a loro, TVTB Forever. Ti sposerò sulla collina di Windows XP, ti perderò in uno screensaver coi tubi 3D, ci incontreremo 19 anni fa, oh oh, che noleggiamo Scary Movie a Video One. Yeah. Mauro, ho capito perché ti piacciono i tonno, e l'ho capito perché intanto che cercavamo le varie informazioni per fare questo disco della settimana, abbiamo visto tante immagini, e tutte queste immagini erano fatte con Paint, e io tutte le volte che tu fai qualcosa con Paint mi incazzo a bestia, no, perché Alessio dice che sono fatte con Photoshop, però sì, diciamo che il livello è quello che uso io per fare i disegnetti con Paint, che sono rimasto ai primi anni 2000. Mi evolvo io. No, se vedete delle robe, se vedete delle cose sul nostro sito, che ricordiamo è festivalsbackpack.it, che tutte le volte mi chiedo perché abbiamo scelto un nome così difficile, però su festivalsbackpack.it, se per caso vedete delle cose fatte male, le ha fatte Mauro con Paint, ricordiamo. E ne vado fiero. Comunque, ecco, i tonno mi piacciono anche per questo, perché si prendono pochissimo sul serio, però fanno comunque le cose bene, questo va detto, perché non è che non prendersi sul serio vuol dire fare le cose male, assolutamente. Sono d'accordo con te. Ma a questo punto, prima di salutarci ascoltando l'ultimo pezzo, che tra l'altro è anche l'ultimo singolo estratto, diciamo, da Quando ero satanista dei tonno, uscito poco tempo fa, il 28 agosto, ed ecco, io direi che possiamo parlare anche delle loro influenze, perché abbiamo sottolineato particolarmente il fatto che loro non si prendono sul serio, che c'è del nonsense, però in realtà vengono da una formazione musicale precisa e strutturata. Esatto, allora le loro influenze sono collegabili soprattutto agli Skiantos, ma anche ai Clash, ai Red Hot Chili Peppers, alle Tatu, Cristina Aguilera, Gigi D'Agostino probabilmente, e anche quel pochino dei Pink Floyd, no? C'è un po' tutte queste influenze all'interno. Però, allora, Nicolò ad esempio dice anche che ascolta tantissima musica inglese e americana degli anni 60-70, quindi insomma, diciamo dai, che non è che proprio vengono dal niente, insomma questi ragazzi hanno deciso però di declinare la loro formazione in una musica che niente, è riconoscibile, è bella, ci piace, l'ascolti la prima volta e poi continui a cantartela. Però la cosa migliore che si può fare a questo punto è approfittare del fatto che è ancora possibile andare ai live. Visto che è ancora possibile andare ai live e ce n'è uno in programma dei tonno, noi ve lo comunichiamo. Il 15 ottobre, quindi giovedì prossimo, all'Alci Bellezza di Milano, i tonno saranno in concerto con Emma Nolde. Magari conosciamo anche questa Emma Nolde, che non sappiamo esattamente chi sia. Adesso, per chiudere questo bellissimo disco della settimana, che si chiama Quando ero satanista dei tonno, che vi ricordiamo la Woodworm ha lanciato nell'etere il 28 agosto 2020, ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero 8 di questo album, che contiene 10 tracce e dura all'incirca mezz'ora, qualcosina in più. La canzone si chiama appunto Ragazza Bonsai e viene presentata su Facebook, ho scritto ecco il video di Ragazza Bonsai, sì, tutto bene, grazie, ecco, quindi va tutto bene, è tutto a posto, noi salutiamo i tonno, li ringraziamo per averci portato in questo pianeta un po' diverso e vi lasciamo con questo pezzo. Resti in giardino, telefoni ai tuoi.